sì. Luigi D'Altieri? Ciao Luigi, basso ti sento. Santiago 3-4, dai, però non c'è QRM, già arrivi. Ehi, già arrivi lo stesso, non c'è problema. Altieri per me è come Sassari. Arrivi, arrivi. Allora bollire l'acqua, fai bollire l'acqua e poi attacca. Che zona sei di Altieri? Altieri, Altieri o giù nella valle? Sì, che già mi ricordo adesso, non c'è problema. Pensavo che era qualcuno dalla zona di Alghero, basso, capito? Perché qua Altieri lo sento solo io, di quelli che moduliamo al canale 10, dai. E infatti quando poi ti senti uno solo, gli altri non ti ascoltano, è un casino, capito? Però già io ti sento, non ne ho problemi. Altieri è sempre arrivato qua. Ma c'era qualcun altro che modulava lì da Altieri, come si chiama? Coso? Non modula più, non c'era più il baracchino. E c'era Coso, quello che modulava lì nella bassa valle di Altieri, dai. Non mi ricordo come si chiamava, non mi ricordo, che sembra che lavori nell'ambito della musica. Ehi, ehi, ehi, cos'è tuo fratello? E che fine ha fatto? Ah, quindi antenna non le può piazzare più. Sì, sì, quindi, per carità. Dimmelo, no, se c'è un problema cerco di rimediare, ma a fare queste cose. Infatti non l'ho più sentito, prima entrava spesso, arrivava anche bene con la Sassari, Nino, però non l'ho più sentito. E quindi, non lo so, per quello te l'ho chiesto. E a me è calda questa pentola, io fammi sentire, fammi vedere il segnale. Ehi, ehi, già sono qua, io non c'è problema. Sto aspettando che entrasse qualcuno, ma ci hanno preso il vizio di entrare alle 8 la sera, capito? E quindi a quell'ora spengo tutto e vado a vedermi la televisione. Io entro dalle 6 e mezza, alle 7 e mezza, così 8 meno un quarto, poi spengo tutto. Vabbè, così è per loro, vuol dire non ha ne gana. E lui, ce l'ho dalle 6, l'aria accesa, non ho sentito nessuno, mi adesso si è affacciato un signorino, capito? Però sicuramente non ti sente. Altieri, lo senti? Con quarantena in pratica? No, qua zero sotto zero, non so da dove sia. Ho acceso adesso per caso, perché oggi ero un po' a riposo, un po' a letto, un po' a guardarmi i telegiornali. È la verità, non ho acceso, ma non ho capito, se non entro io non entra nessuno, non entra Gianni, non entra Natalino, così è. No, Natalino chiama solo a te, nelle PD, Marco ci sei, non è che entra alle 10, a 10 c'è qualcuno, ascolto sul 10, no, chiama solo a te, nelle PD, capito, tu non lo rispondi e lui non parla più, sto notando già un paio di volte, anche stasera ti ha chiamato nelle PD, tu non hai risposto, però sul 10 non è passato. Va bene, è Luigi D'Altieri, ma tu Altieri non ci arrivi da quella zona, manco con la santicamera. L'hai sentito Luigi a Marcolino Condor? Perché lui è la zona interna, capito? Sono tutti forti qua a Sassari, dentro Sassari però, poi quando c'è qualcuno fuori non arrivano manco alla Landriga lui. E quando ero in campagna altro che alla Landriga arrivavo, te ne abusi perché sono piccolo. Piccolo e nero. Tu zitto, ubriacone fragico, che ti chiamano ci sei mai. Stanno parlando, eh. E' lui che è entrato Natalino Alfa 1 e non arrivi neanche da lui. E' Natalino, quando eri lì, quindi facevi la tua parte, non di certo ai miei livelli, non c'è mai stato nessuno ai miei livelli in quelle zone, però già facevi la tua parte. Adesso sei lì e quindi cosa vuoi ti faccio? Molto bene, ok, dai, collega con l'amplificatore lui che voglio vedere quanto sale il segnale, per il momento sei 5, Santiago 5, Radio 5, poi collega l'amplificatore e voglio vedere quanto aumenta, ok, K, va bene, già siamo qua. Ehi, ehi, avete sentito chiamare a Marco nelle PD Natalino? Però no, che non chiami mai, no? Sempre nelle PD chiami tu. E tu cosa non hai rifuso? Io ne so che stai, si puoi avvisare. Rimani di sino, puoi far avvisare. Cosa diciamo a fa? se tu puoi parlare, mi dice, Minatari, ci sono anche io. No, no, stavo facendo cosa, non ti potuto rispondere, stavo dicendo a Marco, che lui ha detto, se non entro io, non entra nessuno, io ci sono sempre. Ci sono sempre, oggi mi fa meno male la gola e sono entrato, capito? Però ci sono sempre io, ci sono sempre, nascosto, capito? Quindi stavo dicendo a lui, gli ho detto se non entro io non entra nessuno, no, già entra, infatti ho detto ti ha chiamato Natalino nelle PD e tu non hai risposto, anzi pensavo che eri ai lavori forzati, Marco. No, oggi no, non è venuta, non avevamo in programma niente. No, mi sono più rilassato, sono stato un po' più sdraiato a guardarmi TV, da D'Urso, quella maialona, poi mi sono guardato il telegiornale, vabbè, ho mangiato alle 6:30, eccetera, eccetera. No, oggi avevo tutto spento, Natalì, anche il ricevitore, tutto spento. Comunque è meglio chiamare, ha ragione Claudio, meglio chiamare in 27, in 27 che non in LTT. Va bene, vediamo l'amico di Ozieri si è attaccato il lineare, vai Claudio. No, ti do le 10 minuti che poi fa nuovamente una chiamata, il fratello di Nino 1, Natalì, di Ozieri. Mio dice che mi ha tolto tutto perché ha avuto problemi col condominio e quindi non mi ha piazzato più. Ma col condominio o col condomino? Col condomino, domino. Ah, con uno solo allora. Beh, lui mi ricordo, abita lì all'ingresso del Fieri, sono le case a schiera, evidentemente ha avuto problemi con i condomini, cosa ne so. E alla fine cosa hanno fatto per disfarsene, capito? E hanno messo un ago, dal cavolo è andato a trasmettere e ha bruciato tutto. Che bastardi, gliel'avrei messo nel cervello l'ago, guarda. Oppure, per focaccia, allora lui se riusciva metteva l'ago a tutti quelli che hanno il cavo d'antenna, spillare tutti i cavi d'antenna, a vedere. Visto che vogliamo la guerra. Ma non la conosco, è una persona tranquilla. Conosciuto, è venuto anche qua a casa mia. Capito? Una persona tranquilla. E poi il cavolo le scendeva in facciata, quindi capito. Ne hanno approfittato. Case basse, e quindi. E vabbè. E qui ci è rimasto lui. E il fratello Luigi e Giovanni ci è rimasto Ozieri due. Prima erano in tre. Forse mi sembra c'è anche Paolo, non mi ricordo il nominativo, però prima già ce n'erano di Altieri. Ma vabbè, Altieri 922, Marco, tu immaginati che Altieri facevo lampeggiare i lampioni della piazza. Da Sassari, ma Buffamilucci. Buffamilucci? Che tu Buffamilucci, sì. E che non lo senti a Luigi Sonte l'avrebbe detto. Ma mi pareva forte, insomma, da dire. Vabbè, anche così con ce l'ho davanti a Siri, non ha problemi. Ma due risate ci facevamo. Due risate ci facevamo. Sì, vabbè, posso capire lì vicino, ma addirittura Ozieri a far accendere i lampioni, che all'epoca erano neon, mi pare, no? Allora, a me era neon. Facevamo anche le prove dentro la galleria con un bicchiere, oppure e sciude allucinante, bei tempi, vabbè, si viveva, si scherzava, adesso sono finiti quei tempi, adesso due chiacchiere giusto così per sentirci, già va bene, già va bene. E quindi finito là il tuo computer? Ma io Natalino? No, il computer è a posto, è funzionante, sto già navigando, eccetera. Ma Natalino forse ha chiesto, Natalì? Io non ho fatto niente ancora. Devo modificarlo, WorkKit, perché le ventole sono, i posti per le ventole sono troppo piccoli e li devo fare a misura più grande. Purtroppo quelli sono case del 2004-2003. infatti non lo so se andrà bene per una scheda video moderna, ma può darsi pure, può darsi pure. Se no mi, per il costo che hanno ti conviene comprarlo nuovo, se proprio non va bene. Mi pare che si vende di 20 alle 30 euro un case, no? Abau, e più cosa? Non lei ci compri per quel prezzo. Io stavo parlando? No, no, no, va, già ti avviso quando becca Luigi. Ehi, abbassa, lascia un po' di spazio infatti. Io sono rimasto Natalia, i prezzi di allora. 2000, inizi 2000, dai. Adesso i prezzi saranno lievitati. Ma le chiese saranno anche più, non lo so, diversi, proprio adatti. Bene, bene, bene. Comunque, vedi, c'è qualcuno a cui non piace Windows 10. Parole sue, ha detto che è una cagata. Non mi ricordo che me l'ha detto. Vedi, a chi piace, a chi no. Ma cosa? Windows 10, qualcuno mi ha detto che è una cagata. Parole sue, non mi ricordo chi me l'ha detto però. Senti che non le capisci un cazzo, eh. È velocissimo. È una cosa, tu come lo vedi, spegnelo. In un secondo si spegne, accendelo ugualmente. È velocissimo. Caspita, basta avere anche un processore un po' veloce. Comunque erano interessanti questi i5. Ci sono gli i3, i3 c'è scritto, i3. Immagino si pronunci i3, i5. L'i3 è una via di mezzo, l'i5 è un gradino superiore, ma costano un po' di più, eh. Poi c'è anche un Pentium che è uguale all'i3, sempre in serie. Dual core, 4 thread, 6 processori sono che vanno. C'ha l'hyper-threading, è come l'i3. Infatti lo puoi montare sulla scheda che ci va l'i3, l'i5, l'i7. Lo puoi aggiornare, lo tieni per anni se ti prendi il G4560 si chiama. E costa 67 euro mi pare. Anche a 50 rotti l'ho visto. Ehi, wow. È un processore Kabilic, capito? E quindi puoi mettere la scheda per i Kabilic. E poi tu lo vuoi aggiornare, lo aggiorni quando c'hai i soldi, te lo aggiorni e te lo fai più potente. Chi più potente cosa te ne fai? È già potentissimo come lo prendi, puoi giocare a tutto se c'è una buona scheda video. No, no, giocare mai. L'importante è che i video di YouTube e i DVD siano fluidi. Tutto lì. L'ho sentito nominare più volte questo Kabilic, ma è particolarmente buono. Ehi, è la classe di quei processori che hai detto tu poco fa. Sono tutti Kabilic, i nuovi processori della Intel. Addirittura il Pentium non dovrebbe averlo quello lì, eppure è un processore Kabilic che c'ha tutto. Lo puoi overclockare, ne beva poco di cose. Java 3,5 giga mi pare, se non di più puro. È un missile. Se io ho un E5002 che è un dual core normale ed è velocissimo, figurati con quello cosa fai. Eia, Claudio, lo conosci a Kabilic? Oh, non ne sa Claudio di queste cose. Già hanno la memoria diversa che di DDR4. Figurati. No, a Kabilic conosco io, un amico. Ti immagini il processore Kabilic? Per me è arabo, quello che state dicendo. Non ne voglio manco sapere, non so, oggi matare il gabbo, il computer blu. Non mi è mai interessato, io l'ho comprato nuovo, quando si rompe lo ricompro nuovo, so fare le mie cose che mi hanno insegnato e basta. Posso usare come mi hanno insegnato, le cose che mi interessano, il resto proprio non mi riguarda. Vediamo un po' se Luigi ha preparato il lineare, lui. No, ancora no. Capito, non ho mai avuto passione io del computer. Mi piace, ti ripeto, averlo, perché è giusto averlo, so fare le mie cose, le mail, ricevere, mandarle, controllarmi tutto quello che mi serve, però non mi dia a me cosa avete dentro il computer, che io non ho mai compreso nulla, non mi è mai interessato. Natalino è stato sempre appassionato ed è giusto così, ognuno ha le sue passioni. Ecco, costa 62 euro il 45-60 e la scheda madre 85-52, solo che le DDR4 costano 110 euro, mi sembra che costino 8 giga divisi in due banchi, il kit per fare il dual channel, non so se ne rendo o se faccio colazione. Sì, sì, già, non ho capito qual è la, solo la, qual è, uffa, qual è il vantaggio di avere un banco solo da 8 giga o due da 4? Il vantaggio è che la memoria lavora meglio, no? E poi raffredda più bene, perché sono due banchi da 4 invece che uno da 8. Lo fai in dual channel, lavora, capito? Si fa uno sì e uno no, capito il dual channel. Eia. Basta non riempire tutti gli slot però, perché se uno vuole aggiungerne poi. No, ma Claudio, anch'io dell'hardware non ne so niente. A me basta che funzioni. Te ho detto, io me lo sono sempre fatto costruire, assemblare. Bastava dire un computer di classe media, né troppo scarso né troppo performante, e me lo facevano lì in laboratorio. Ma ben poco poi ne sapevo. Invece Natalino proprio sa assemblarlo, capito? È più appassionato di me. Più appassionato di me, capito? Ma è giusto che sia così, non è che ognuno ha le sue capacità, no? Se Natalino le piace il computer, è sempre sperimentato, io lo so, perché l'ha sempre fatto, quindi è chiaro che se lo sa assemblare, conosce i pezzi, conosce tutto. Io non ho mai, l'unica volta che l'ho aperto mi ha detto Luca per pulire la ventola, per pulirmelo, poi l'ho richiusa, ma non mi interessa cosa c'è dentro, capito? Tanto non è una cosa che so fare, perciò cosa ti devo dire? Tu dovevi vedere quell'alimentatore da 500 in che condizioni era, l'ho dovuto aprire per pulirlo. Ma il mio? No, il tuo non l'ho manco toccato perché gli mancavano le prese SATA, capito? Quando tu c'hai gli hard disk SATA e il lettore SATA ci vogliono le prese SATA, l'alimentatore tuo non ce l'aveva e quindi gli ho dovuto piazzare quello da 500 che avevo io. Guarda, io nel processore di quello di messa a posto, no? C'è il processore che è giù in foto, sopra ci sono delle fitte lamelle, no? Molto lunghe e sottili, c'era un marraggio di polvere che non ne hai idea, un marraggio di polvere tra le lamelle, proprio ho dovuto pulirlo col pennello, capito? Faceva raffreddare male le lamelle del processore. Magari raffreddava lo stesso, ma era tutto un marraggio di polvere. La netta proprio me. Sì, già lo so. Però ne vuole tolto il dissipatore. Poi pulito sopra il processore con l'alcol e messa la pasta termica nuova. Sia nel... vuole pulito anche il dissipatore. Lo pulisci meglio, la ventola, devi smontare tutto. Comunque sì, la ventola l'ho tolta, Appunto sotto la ventola ho visto che nelle lamelle c'era un marraggio di scioppa, come direbbe. Già viene poca di scioppa. Sì, già lo credo che era così. Ce n'era poca di lanella e di malassorte dentro quell'alimentatore, l'ho dovuto tutto aprire, ripiazzare e poi piazzarlo nel case. Adesso devo mettere mano al trapano per fare un po' più di buchi e ne metto una grossa di ventola. Gira, gira, vedo se riesco a metterla da 14 centimetri che butta fuori l'aria. Claudio, ma lo sta fabbricando il lineare? Non lo so, c'aveva problemi di connessione, boh, non lo so. Continuate a parlare, non c'è problema. Datemi un minuto che sto mettendo a posto qua. Eia. Comunque era lurido quel computer, c'era un bel di polvere sulla scheda scheda video. Molto sporco, perché non lo so, c'era l'alimentatore, c'erano i bucherelli, i forellini, è entrato un saccaccio di polvere, ho pulito anche sotto bene con la spugnetta, dove c'è il fondo del case, insomma gli ho dato una bella pulizia generale, e ripeto, la scheda video... Io ho trovato sugli slot, nello slot della scheda video, dell'ossido bianco, può darci pure che la vecchia scheda funzioni, quella che ho tolto, che è un ATI Radeon 9200 SE, capito? Può darci che funzioni sempre, c'era solo ossido, prima l'ho pulito con l'aria spray, ho fatto volare tutto l'ossido, la polvere dell'aria spray, poi ci ho passato appena di CRC asciutto per disossidare i contatti e poi ho messo la scheda di quel computer smembrato, dai. E una io l'ho messa qua, ma c'è poca RAM. Aspetta, ti dico subito quale scheda è. Vediamo un po'. Cioè, non ti mettere a voce, per cortesia. Oppa! Allora, vediamo un po'. Allora, HD 2009 XT, ciao. Basta che la porti qua e la provo a vedere se va bene quella che è tu. Sì, conta che è una scheda vecchia comunque, è sempre di quegli anni là, 2003-2004. Comunque io potrei testarla anche qui, da testo, tolgo quella che ho messo, rimetto quella, se funziona meglio ne ho una di ricambio. Infatti, togli l'alimentazione mia dal computer prima di togliere schede o toccare qualcosa, perché dovresti avere un braccialetto antistatico. Quello sì, ma io tocco delle cose di ferro, tocco delle strutture di ferro prima di toccare il computer, in modo da scaricare l'elettricità statica. Sì, lo tolgo, io stacco, spengo proprio l'interruttore, stacco l'alimentazione, me lo porto qui in camera da pranzo, faccio tutto bene, non tocco proprio i componenti, sono molto molto delicato quando opero. E mettiti un pezzo di filo di rame al polso e collegala a qualche termosifone, qualcosa di ferro, quando stai toccando quelle cose lì, che non si sa mai. Eia, ma mi pare che in via Bucari non ne usano, non ne ho mai visto usare cose strane. Sinafuttini! No, che già ce l'hanno il braccialetto antistatico, ci sono quelli che non hanno i fili neanche. Oh, Sì, ma e dove scarica, scusa, se non hai contatto con la terra o con altre cose? La scarica, scarica. Infatti, ma lo devo comprare quello senza fili, il cazzo che serve. Non si sa mai. Io gli attacco un po' così, all'inizio. E me lo faccio. Il braccialetto. Claudio, prova a chiamare Ottieri. Luigi, ci sei? Ottieri, andate a pigliare il nome della vostra mamma. Comunque funziona bene quella scheda video che ho io, anche se c'è poca memoria, funziona benissimo. Mi fa piacere. Schede video adesso, consultando via Bucari, ne avevano una della Shafir forse, non mi ricordo, ne avevano Intel, ma le schede video Intel non sono banali, boh. Di varie marche Lenovo, ah vai, io se lo metto di quelle buone, tipo Shafir, tipo giocatori. Ehi, schede video che costano 300 euro, c'ha la Intel, che tu non ci arriveresti mai per usarlo con quei i7 Kabilic, se no non gira un cacchio. Oh, io credo fossero minchiate. Sì, vai a vederle. Più tardi me lo guardo, mi voglio vedere i prezzi. Lenovo, ho visto HP come schede video e ho detto che schede video sono. Io conoscevo Atti, conoscevo Shafir, conoscevo anche quelle che non esistono più, come si chiama, Voodoo, come si chiamavano, bah, non mi viene. Ce ne sono tanti, ma è roba da poco quella. Intel, Corsair, Zotac, che ti ribassa la gana. Guarda quanto costa una 1080 Ti, va. Mi, Claudio, stanno chiamando. Sì, pronto sei lui, fammi vedere il segnale. Luigi, Ottieri. Ho sentito fischiare da lontano. E anch'io, però non riprendo. Se non è passato tutto in aria. L'8 voti c'è per la memoria, perché io ho un casino di memoria RAM, però non ho visto ancora che memorie sono. Io ho due slot vuoti ed è una memoria DDR3 da 512 mega. Quindi è buona la memoria. Mettiti Windows 7, cazzo, cosa te ne fai di XP? Non gira un cazzo. Ma dovrei comprare il disco di installazione. Io non ne voglio roba piratata, deve essere un sistema operativo che io posso aggiornare, no? Già te lo piazzo io, ce l'ho io, c'ho tutto io. Mala sorte. E poi te lo attivo io. No, che tu sei pirata, magari mi dai una copia contraffatta, e lo attivi con quelle cose hacker, come si chiamano, quelle crack. Vai, che io ho Windows 7 originale e anche Windows 10, e sono attivati tutti e due. Ma forse poi la RAM non basta, non lo so, bisognerebbe molto chiedere chi ce l'ha una RAM uguale, un'altra da 512 DDR3, e così diventa un giga. E io adesso guardo a vedere, magari ce l'ho io, magari la facciamo 2 o 4 giga, e vediamo. Se abbiamo poca RAM ti piazzo il sistema a 32 bit. Perché 7 come lavora, anche al 64? Certo, però devi avere più RAM. Io ho 4 giga qua per il 10, perché lavora a 64 bit. Eia, ma programmi, ne trovi programmi che girano a 64 bit? Tutto c'è che funziona. Vabbè, comunque Natali, purtroppo aggiornato è un casino, perché c'ho tutti quei programmi. Aspetta lui un attimino, stanno parlando. Si è resetto la disk, non li trovo più, dai, non li recupero più. Aspetta, Natali che ha chiamato Luigi. Luigi, due segnali in più, 7, sì. Però aumenta un pochino la radio. Sì, cosa c'è? Il microfono preamplificato? Aumentalo appena appena. Va bene, lascialo così. Vediamo un po' se ti sente Marco. Adesso Marco, lo senti o tiri? Ma che? 0 sotto 0 era e 0 sotto 0 è tuttora. Idem compattate. Non ti sento, non ho lui niente da fare. Qui si è passato da 5 a 7, ottimo segnale. Però Nino arrivava molto più forte di te, Nino arrivava anche 9. Oggi Kurt ha fatto 2 anni. Vabbè, 680 watt già va bene, dai. Non ti preoccupare. Comunque gli altri no, non ti sentono, ti ascolto solo io, lui. Ok? Cos'hai detto, Natali? Che il mio cane ha compiuto 2 anni oggi. Auguri a Kurt. Mi è venuto qua. E Marcolino, gli auguri a Pupo, al Pupo gli ha fatto, vero? Kurt? Kurt? Kurt, mi senti? Cosa vuoi dialogare? Pure Gurigani vuoi dialogare? E lui parla. Magari mi risponde, chi lo sa, tutto è possibile. Sì, Natalini, Kurt parla, ma Marco non sa parlare con i cani. No, diciamo che parlo come un cane. Cosa hai detto lui? Prova? Sì, sì, Santiago 7 arrivi, quando stacchi sei Santiago 5? Che lineare è? La Madonna, più invece di nonno è. Lentecco, Lentecco no, già ti ne metti Marco. L'hai conosciuto? Io te l'ho conosciuto, Lentecco no, cioè, una valvola c'è. Ehi, quanti watt da? Una cinquantina di watt, 50, 60 watt. Se sentite rumore sto pulendo i microfoni con l'alcol, con l'alcol quello che non togliere scritte però. Ok. Oggi una cosa nata lì, mai vista, mai successo. Tutti questi giorni da ieri che piove, eccetera. Sono andato a spostare il commutatore elettronico, quello della Meritron, infatti adesso l'ho spostato, l'ho messo più in alto. E sotto era bagnato. Sotto era bagnato. E quando mai dal cavo di alimentazione è entrata acqua dentro? Ia, vabbè, cosa male che leva, buca la rocca. Proprio dall'alimentazione è passata. Cosa mai vista in vita mia? Anche quest'acqua qua, tu sei intaccato loro, ma non è che l'hai passato lo traccio bagnato dalla scrivania? Dice, no, assolutamente, loro non c'entrano mai qua, pulisco solo io, lavoro solo per terra, una roba da matti. Adesso poi la sera ho controllato dalla finestra, niente, tutto asciutto, il cavo di alimentazione che alimenta il commutatore perché è alimentato. Niente, la presa tutta asciutta, nulla, il cavo, visto che è bello asciutto. Quindi ho messo più in alto. Cosa vuoi dire? Dalla finestra acqua io non li ho notato. Adesso non sta più piovendo, domani se si è asciutto, l'avevamo passata a Sineconi, dove entrano i cavi, non si sa mai. Che si è entrata da lì l'acqua. Una cosa strana, ma molto strana, Tramite il cavo è passato. Ma ce n'è uno solo, un attale di cavo, quello piccolo piccolo che c'ha i fili, che quelli li ha salvati Maurizio con Fabrizio, perché lì deve essere bravo anche a saldare quei cavettini fini. E l'unico cavo che c'è di alimentazione è quello, capito? Che praticamente scende da su, dal relè di commutazione giù al chiamiamolo control box, che si è passata da lì l'acqua. Lei va a battere in ognuno qui, ma la tutti l'accudia. Mi ha frecciurata, ma giubilato, ci mangiano. Sì, quello lascia perdere. Quello lascia perdere, stamattina stavo pensando ai miei colleghi. Vabbè. Ma tocca a Dio, oggi vi ha dato. Capito? Con l'acqua forte che ha fatto stamattina, per Daniele ha fatto danno, mi ha legato cantine, ha legato quanto c'era. Va bene. Aspetta Marco che lancio a Luigi. posto si chi so che intendi, guarda, di tutti i colori ne stanno facendo. Sono qui, perché non chiude la zia e cantina? Ma noi la cantina non ce l'abbiamo. Aspetta che ci siamo fatto io della cui. Oi. Sì, cose allucinanti. Capito? È andato all'appuntamento con questo amico e proprio l'amico l'ha fatto sparire, proprio fisicamente. Fatti affidare degli amici, me, per carità. Era il miglior amico suo, anzi, dice che il debito è di 30.000, lui gli stava portando altri 8.000 euro. Non so se ne rendo o se faccio colazione. E chi tu la taglia due ore? Il miglior amico suo, dice che è. Fatti affidare dei migliori amici, mi, per carità. Immagini Marco, se ti do l'appuntamento e ti taglio la gola. No, ma tu vabbè, ma il migliore amico era, già lo sai chi, no? Lui almeno si è limitato a farmi sparire un tablet, ma almeno sono vivo, capito? Ma lui te l'ha messo nel QSO proprio. E beh, che vuoi fare? Se uno è così non lo cambi. Però si brucerà, come già si era bruciato con altre persone, la fama se l'era fatta. Sì, non conosco, non ti preoccupare. Fatta da gado, facevo tipo così, la prima tenevi a coce. La prima, persone a volte bisogna stare molto attenti perché sembrano di essere chissà chi e poi magari si riscontra che non è così. Vabbè, pazienza. Vediamo un po' Luigi. Luigi? Sì, stesso segnale. Sì, uguale. Forse questo lo conosci Marco, il B132. Transistorizzato, cos'è? E cos'è? Come il B132? Va a volare, no. Il B132 era una specie di transistorizzato alimentato sempre a 220, no, 5, che aveva due valvole, quello era bellino. Quindi è transistorizzato, perché mi diceva Marco, tu lo senti, che il BV131 è quello valvolare, mentre il B132 è quello transistorizzato, così è. Sì, sì, quello là ce l'ho, vado per accordare, è simile Marco al 131, va. Stessa cosa, solo che è transistorizzato, mi diceva Luigi. E adesso di transistorizzati c'è solo roba grossa, il 300 e il 600, di cui non ricordo le sigle però, e sono molto costosi anche. Quindi sono costosi, sì. E anche lì te lo devo mettere al DAC, quello, come si chiama, quello dell'Aranda, sistemato l'angolo, così rimane fisso, non sto attacca e stacca, stavo facendo degli spostamenti, ho fatto anche lo spostamento del contattore elettronico, vediamo se domani trovo bagnato, devo trovare dov'è il problema, perché sta entrando quest'acqua, ho capito, forse dalla finestra. La siliconata, non so, vabbè, avanti Natalia. Non stare scendendo dal capo, no? Ecco lì, dal capo per forza entra. Per forza entrata dal capo, però gli ho fatto un choc fuori e l'ho fascettato in modo che si fermi lì, se entra lì, cosa ne gioco, coli fuori, se sta entrando dal capo. Perché l'unico capo fine è quello lì, gli altri sono tutti grossi capi, quindi non ho mai avuto problemi, non ho mai visto niente. Qua ho trovato sulla scrivania una chiazzettina di acqua. Vabbè, vediamo domani, se no. Adesso col ciocco non dovrebbe entrare comunque, perché prima era diretto, capito? Quindi magari scivolava, però un bel cane, una goccia, non lo so. Devo controllare, io le faccio alla scatola di Renesu, le faccio un affare di plastica, lo riservo dall'acqua perché è all'aperto. Natalino vi saluta Luigi da Ozieri. Ok, quando vuoi lui io ti sento, quindi quando vuoi fare qualche prova chiama, ci siamo qua la sera. Ok, ciao, grazie a te per essere intervenuto, alle prossime, se vedi a Nino salutamelo. Ok, grazie, grazie anche a te, buona giornata, buona serata, ci sentiamo alle prossime, vai Marco. D'accordo, peccato che non lo sento, ma d'altronde sono completamente chiuso io per là, almeno credo, Purtroppo c'è sempre libero il Alghero, Tintino, quella zona lì, proprio è portata ottica lì, è libero, però Thierry non esiste, non esiste. Bene, io quasi quasi vado, vediamo. Che sono le 8.28, già, devo fare una cosa al computer veloce, devo togliere i film e mettere il hard disk esterno, se no mi pigliano per il posto. E poi vediamo cosa c'è in TV oggi. Comunque sì, oggi c'è un'altra piovosa, domani niente sapete. No, manco il computer ho guardato. No, vai a vedere. Potrebbe piovere. Se vuoi ascoltare il generale Pappalardo, te lo mando in diretta, Marco. Pappalardo? Ma cos'è, del meteo? No, no, generale dei carabinieri. Capito, che vuole arrestare governo, capo dello Stato, a tutti, perché sono tutti abusivi. Già ci vorrebbe un colpo di Stato, mi capito? A prendere a calci nel sedere tutti i politici. Però ormai i colpi di Stato non vanno più di moda, andavano di moda negli anni 70, ma ormai siamo fuori in Europa, quindi doppio danno. Bene, bene. Sì, adesso mi faccio questa piccola operazione e poi mi accendo la TV, vediamo cosa c'è. Guardatelo su YouTube, il filmato, generale Pappalardo sul mio onore. Guarda quel filmato, che ti mica fa la risa. Ehi, lo guarderò. Ma perché fa ridere, no? Non dovrebbe essere una cosa seria, anzi. Serissima. Però queste cose che sta dicendo lui non si possono fare. Capito? A chi ti arrecano in prima? Ehi, ehi. Va bene, dai, me lo guarderò prima che inizi il film, eventuali film, dai, vi saluto, sono le 8:30 in punto, forse domani, fra 10 giorni è Natale, e quindi non via tutti i panettoni, tutti quelli dei discount, domani me ne voglio via un euro. A me me l'hanno regalato il panettone e lo sfumante stamattina. Signore, uno me l'avevo comprato io da Eurospina e me l'ha già mangiato. Eia, guarda, io le avevo comprati da Lidl, sia il pandoro che il panettone, no, in busta, perché col cartone costavano quasi un euro in più, erano in busta, no, ma erano buonissimi, quelli umidi, saporiti, niente da dire, ormai mozza, coso, quelli lì, bauli, non ha più senso, non ha più senso. Forse perché, ma erano veramente ottimi. Le abbiamo mangiati a colazione, capito? Anziché merendine, quella roba, una bella fetta a colazione assieme al latte. E per questo li voglio ricomprare. Quindi domani, che 16, parti, mi lo mancano da domani 9 giorni a Natale, che occhio, preparatevi. E io già mi ho fatto già la spesa. Quando mi ha visto Gianni dice che ho portato via il supermercato. Eia. Va bene, dai, ce lo passiamo con mamma, con calma, tanto già lo sai, mia zia sarà con l'olmadese, no? E lo cintro. Ormai da quando le sono entrati in Q, già hai capito, non li molla più. E vabbè, buon viaggio, bel quadretto. Mio zio, l'ubriacone, l'olmadese e lo cintro, bel quadretto proprio. Eia, tu gli devi dare dei sedativi a quella lì. e quando è bella addormentata ti fai firmare tutto a nome tuo e poi la ammazziamo. Peggio di quelli in televisione, eh? Peggio di quelli là. E vedrai che lascerà una bella fetta, o la maggior parte a quello olmedese. Oh, secondo me è come che ci fosse innamorata di questa tipa. Questa è una teoria nostra, ecco. Oh, dunque domani pioggia, precipitazioni 40%, precipitazioni sparse, umidità 66%, vento oltre i 31 km orari. Mentre invece oggi era 16 km orari il vento. Ci sarà di nuovo quel cazzo di libeccio di merda, che è una goccia allucinante, che è un vento schifoso. Comunque piove domani, eh. Cazzo, speriamo di no, cazzo. Mamma mia, cazzo. Devo fare cosa e più. Vabbè, l'ombrello natalino. Io vabbè, già sono in macchina per andare da Lidl. Va bene. Poi uno spumante, vediamo cos'hanno. Che sia dolce, perché a me secco non piace. Ok, poi hanno detto che deve arrivare di nuovo un fronte gelido dal nord, quindi si abbasseranno le temperature un bel po' nei giorni a venire, capito? Fronte gelido in arrivo, quindi preparatevi i cappotti, pacco. Qua mi ha giubilato una trizzura e la metà basta. Sto bagnato, sono arrivato a casa. Ma in macchina ero, ma quando uscivo capisci, accuzzurata aveva, mamma, dalla testa ai piedi. Deia. E vabbè, io infatti uso l'ombrello, appena mi fermo lo metto fuori dallo sportello, apro e cerco di limitare i danni, però anch'io mi sono bagnato lo stesso, non c'è niente da fare. Quando piove è forte, ci si bagna e buh. Non c'è ombrello che tenga. Poi quando c'è il vento te lo sposta, ti bagni tutto i pantaloni, le scarpe, per carità. Bene, dai, vi saluto, a domani, tocchiamo ferro. Ecco qua, non si sa mai, tocchiamo ferro, per me dico. E sentiamo, dai. Ciao Marco, ciao Claudio, alle prossime, là. Io già mi tocco i gioielli di famiglia, che così facciamo 13. Ciao ragazzi, dai, ci aggiorniamo domani, ci andiamo a cenare, ci sentiamo domani. Ciao Natalino, ciao Marco e ciao chiunque fosse in ascolto, come sempre, sul canale 10. A domani, ciao a tutti. Ciao.